adesso. E allora che sì? Spero, non si è sentito? No, non ha inteso ancora. Per lui. Però peggio per lui. La riprenditela. Metta in carità. Riprenditela tu, Antonio, cosa stai combinando di bello? C'è ancora niente. Fa vuota, ha finito di pranzare. Ah? Anche no, tu sei trovata a casa, no? No, sto sempre col bastone di scoppa. Boh, avrà 3,50 euro in come minimo. Cosa ci puoi fare? Una giugana. Non ho tempo, no, né voglia né tempo. Mica non ne voglia, tempo già ce l'hai. No, non è che non c'ho tempo, è che quando c'ho tempo libero faccio l'amore. Stavo per dire che lo facevi tu un battone, non l'amore, ma comunque già ci sei arrivato da solo. Deve fare che quando c'ho tempo libero non mi arrampico sui tetti, mi arrampico sulle liane. Magari vai da un tetto all'altro, non so ne so io, come le scimmie. Sì, come le scimmie, da una tetta all'altra, Ma vado. Figlioia. Ma penso che Claudio entrerà fra un paio d'ore. Se non deve giocare a calcio, penso che alle 5 sarà qua. A calcio gioca? Mi sembra che il sabato gioca a calcio, boh. Questo po' che è brutto. Ma non dovete dire, dice che c'è la squadra di calcio, gioca anche lui, come lo so. Se è vero o no, non l'ho visto io ancora giocare. Sì, che c'è una squadra di calcio, lo so, è il presidente. Se è stato giocare anche lui, non penso che non ci giochi. Chi è che chiama? Guardate che mi ha chiamato, basso. Non fa ridere. Dice per lui. Certo, te che li senti tutti. Però davanti anche la sullo stile della Turbo 2001 ha lanciato la basetta della Grand Prix, poi come va detto sono tre stile di antenne di macchina di quello molto vecchio e basta, questo già esce, ha attaccato un palo di 2 metri. E vabbè, basta. Vabbè, la devo già quella che è questa. Non potevo mettermi la nessuna antenna. Tutto l'altro me l'ho regalata e quindi ho pensato a fare un incrocio di antenne, questo già funziona, già risuona. Vabbè, così proprio noi. Che c'hai? Chi è che non mi voglia? Tutti non hanno voglia, già lo sai. Chi è che mi chiama? Più forte pure peggio di prima? No, più forte, Rita, sei salita del segnale, 5. Sentiamo 5, come radio, perché sono sotto il garage, capito? Radio 5 a bomba qua, non so se si sente Antonio, Antonio ascolta Rita. Non ti sente, Antonio da Monte non ti sente, perché cioè, gli mancano tutti i radiali, gli mancano Antonio. Gli è rimasto solo lo spino di quell'antenna. Sì, questo sì. Deve essere un po' inattentito quello di Stefano. Questo arriva molto più forte come segnale. Diverso baracchino già si nota già. Sicuramente. Ma l'ho detto 48, però quello di Stefano non sta uscendo, capito? Non funziona bene, non so cosa si sia rotto. Se il controllo magari c'era qualche resistenza alle finali, bruciata, cosa ne so, se esce in trasmissione qualche problema c'ha, senz'altro. Aspetta un attimo, Pompon, guarda questo passaggio, da questo a questo. Sempre uguale. Pompon, mi ascolti? Sì, più bassa. Più bassa? Sì, più bassa sei con questa. Se così è diverso. Sì, così sì. Quel baracchino già esce, solo che c'è meno watt, evidentemente c'è un watt solo. E invece con lui ne va meno una ventina, cosa ne so, la differenza è 5 dB sono da. Ho capito. Antonia. Oh yeah. Allora, cosa mi racconti? si lavora e si fatica per i soldi e per la ficca. Allora niente, i cazzo. Comunque si lavora e si consuma ogni anno. Tra luce, acqua, eccetera, eccetera, ciò che guadagno ce lo rimetto. Matto. Oh, allora? Lavora le pasti, non magno. A che la pace, ciao Antonio, ciao anche a Vito. Ehi, tra un po', dai. Ma lo sapere tu, e ti faccio lo squillo, mi questo qui è apparecchio. Vabbè, non c'è problema. L'importante funzioni. Vabbè, io mi faccio mangio. Sono qua. Puoi venire. Puoi passare tranquillamente. Ma non mangiare, Cla, la tua età, dopo ti fa male, ti ha preso il fegato, il cuore. Ma hai finito tu di rompere i coglioni? Beh, prendetevela dove non ve l'avete mai preso, eh. Non vaggio la gana vostra. Ma gli batteri a 100 km. Ciao, ci sentiamo, tu, io sono a casa, quando vuoi, quando ti piace. Sono qua. Ciao. Ciao a tutti. Sì, amore, quando vuoi. Buon pranzo. Ciao, Cla. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Cla, sono tu ribrettato. Come io? Allora tu, ciao, Bobù, poco Bobù. E allora, cosa mi dici? Allora ti dico, qua siamo, mi hanno sentito, questo c'è il barattino qua, il 5. Ho visto lo Smith, saliva, siamo lì fuori, chi sono? Sono andato il volume. Eccoti qua. Non è saliva, no, scarrascio, eh. Ha fatto un tapucco. Oia, tutto va bene, quello che finisce bene. Sua casa. Dove ti chiedi che sono? Andava, esce bene, cos'è il 44 quello? Solo che non posso fare che non ci ho alimentato la bella, passaggio non lo posso fare. Alla! Aspetta, vai, vai, passaggio. Alla, mi mette alla. Quindi è qui. Davvero, l'alimentatore si squaglia, no? Ma abbassa, si squaglia squagliando. E già lo sento, già. Comunque già va bene, dai. Microfono normale, c'è. Sì, sì, il palmarino piccolino, se no sembra stato l'unica track, già se l'hai inteso. No, c'è un rumore anche un po' forte. È vero, ma questa che va a fare? Abbassa, cazzo! No, facciamo la parte. In protezione. Non faccio, non sto crescendo per quello, come l'ha abbassato? Sembrava scendere il signor Robbio, faceva, sembrava un bando laterale, è già fritto con l'alimentatore. Io pompa a pompa poco, no, ha cambiato la batteria lì, ha fatto un po' di allineamenti. Vabbè dai, ci vediamo dopo, quanto? Portalo qua, ce la faccio fischiare io, non ti preoccupare. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo. Ciao, la mia che ti copia il telefono, Antonio. Perché niente, sono un fumo in occhio. Mi fate giusto, andai in banca, mi dai vedere me lo compareggia. Antu, ma poi tu scendi, Antu. Marco di Palazzo, già fuso, cazzo, con l'aeratore. E ora ci stiamo dal culo te due, quello deve spegnere e riaccendere che fa in protezione il finale. Cosa cazzo già vedi lui? E vedi una cagata. Ti ho parlato con l'alimentatore, mi hanno parlato del barattino. Ah, bravo, ciao. Tanto! Poi c'è Nando, ti fa scariche. E come faceva Claudio una volta? Amici, come fai che tu vai a fare un culo? Non si capisce niente, tu. Ma facendo male. comunque che stava andando bene. Aspetta, attenzione. Scusate, e anche Romani lavoro, invece tutte le vai a casa, K. in comune di parenti, cugini, tutti in comune. Il sindaco Alemanno ha assunto 1.000 persone, tutte amici e parenti suoi. Se non ci vuoi chiare che faccio un inizio. Amico di Davao.